Mercato Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Sono appena finiti i lavori della cabina di regia che ha esaminato i dati provenienti dalle regioni italiane. Il trend è buono pressoché in tutte le regioni, il che mostra che gli effetti del lockdown sono stati estremamente positivi. Naturalmente il virus continuerà a circolare, per cui bisognerà continuare a tenere elevata la guardia. Pare chiaro il messaggio, care ascoltatrici e cari ascoltatori, di Gianni Rezza, direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute, che ha commentato i dati sul monitoraggio post-lockdown del 18 maggio, diffusi dal Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità oggi, e ha detto quindi che il trend, la tendenza è buona, anche se il virus naturalmente continua a circolare. E sapete che proprio in base a queste valutazioni delle ultime ore, il governo dovrà decidere cosa fare da lunedì, da 3 giugno, che dovrebbe essere la terza tappa della fase 2, cioè quella della riapertura tra le regioni, della mobilità. Ma sapete, come vi ho raccontato più volte in questi giorni e anche ieri lungamente, come le regioni siano divise dai vari punti di vista: chi vorrebbe che fosse tutto aperto, chi vuole aprire subito, chi invece è spaventato da altre regioni che hanno livelli più alti e quindi dice no, noi non accoglieremo le persone, i cittadini che vengono da quelle regioni, eccetera eccetera. Quindi torneremo questa sera su questo dibattito in attesa appunto che il governo decida in queste ultime ore cosa fare dal 3 giugno. Ma il 3 giugno, se le cose non sono cambiate, una notizia che ho già commentato con voi in diretta giorni fa quando l'avevo vista apparire sui media, l'Unione Europea, i cittadini europei potranno circolare liberamente dal 3 giugno in Italia? È cambiato qualcosa da quella notizia che avevo visto con voi, voi l'avete sentita, io l'avevo vista qualche giorno fa. Allora questo risponderà, dovremo raggiungere il sottosegretario agli esteri Manlio Di Stefano, poi moltissime altre cose come sempre anche in questa ultima puntata della settimana. Per i vostri commenti ormai lo sapete, pagina Facebook di Effetto Notte, che lì per voi è giorno e notte, oppure SMS e WhatsApp, in particolare WhatsApp che so che preferite, al 349-238-6666 349-238-6666. Prima di affrontare tanti argomenti, alcuni ve l'ho anticipati con gli ospiti, e sintesi come sempre della giornata. I dati sul coronavirus in Italia: sono 516 i nuovi casi di contagio, calano ancora le terapie intensive e l'Istituto Superiore di Sanità dice che dal monitoraggio post lockdown in nessuna regione c'è una situazione critica, ma il presidente Brusaferro avverte sul rischio in autunno di una nuova ondata. Le riaperture dal 3 giugno, le regioni divise e il governo deciderà tra oggi e domani, ma da lunedì potranno venire in Italia liberamente i cittadini europei dell'area Schengen, a Effetto Notte il sottosegretario agli esteri Di Stefano. Economia, l'allarme di Banca Italia: il PIL può crollare del 13% e l'Istat certifica consumi in picchiata nel primo trimestre. Scuola, i sindacati annunciano lo sciopero per l'8 giugno. Caporalato sui rider, il Tribunale di Milano commissaria Uber Italia. Stati Uniti, a Minneapolis l'agente arrestato per la morte dell'afroamericano accusato di omicidio colposo. Calcio, la Serie A maschile riparte il 19 giugno da Atalanta-Sassuolo, riforma dello sport ad agosto. Partiamo quindi dai dati odierni sul coronavirus forniti come sempre dalla Protezione Civile. Numeri incoraggianti, li definisce il Ministro della Salute Speranza, non ci indicano una situazione critica, spiega l'Istituto Superiore di Sanità, e continua il dibattito tra le regioni. Dati in leggero miglioramento per quanto riguarda i nuovi casi registrati a livello nazionale, 516 nelle ultime 24 ore contro i 593 del giorno precedente, la maggior parte dei quali, quasi il 70%, sempre in Lombardia, 5 regioni a zero contagi. Aumentano i guariti, calano le terapie intensive, in leggero aumento i decessi, 87 contro i 70 di ieri, di cui quasi la metà in Lombardia. Dati di cui il governo deve ora tener conto nella sua decisione sulle riaperture dei confini. L'ipotesi più probabile resta quella del 3 giugno, ma non si esclude uno slittamento di una settimana, mentre aperture differenziate sono state smentite dal ministro degli affari regionali Boccia. Intanto cresce il pressing delle regioni. Il governatore della Liguria Toti chiede che ci sia un confronto prima di una decisione comune e insiste: tutte le regioni dovrebbero riaprire. Di necessità di una riapertura nazionale parla anche il governatore del Veneto Zaia, così come la calabrese Santelli, augurandosi che sia il 3 giugno invitando i turisti lombardi ad andare nella sua regione, mentre per il toscano Rossi spetta al governo decidere, ma occorre cautela, non bisogna essere frettolosi. Prudente anche l'assessore alla sanità della Lombardia Gallera, per il quale la data cardinale è l'8 giugno. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E l'Istituto Superiore di Sanità è stato chiaro, una seconda ondata di SARS-CoV-2 in autunno è prevedibile, a rafforzare l'ipotesi anche le dichiarazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha avvertito: il coronavirus non è sparito e con l'allentamento delle restrizioni dobbiamo prepararci all'arrivo di nuove ondate che si diffonderanno molto velocemente. In mattinata appunto ha parlato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro. Tradizionalmente l'autunno e da ottobre in poi è il tempo in cui comincia la stagione in cui le infezioni delle altre vie respiratorie si diffondono. È la stagione in cui è più probabile, perché si riducono le ore di sole, la gente comincia a ridurre la sua attività all'aperto, quindi rimane in ambienti confinati e la probabilità di diffusione per via aerea delle infezioni delle vie respiratorie aumenta. Ora è chiaro che tanto più ti avvicini alla stagione dove questo tipo di infezioni si verificano, tanto più puoi andare incontro a una probabilità di maggior diffusione. La famosa, diciamo, ipotesi di una seconda ondata è legata un po' a questo tipo di caratterizzazione. L'OMS confermava appunto questa ipotesi. A proposito di OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, vedo adesso un aggiornamento in presa diretta: gli Stati Uniti metteranno fine alla loro relazione con l'OMS, lo ha annunciato Donald Trump alla Casa Bianca in relazione alla gestione della pandemia da coronavirus. Sapete che già da tempo aveva un rapporto piuttosto contrastato con l'OMS, l'accusava di essere soggiacente alla Cina, adesso ha deciso, l'ha annunciato ufficialmente, di voler mettere fine alla relazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Dal 15 giugno la Grecia apre ai turisti, esclusa l'Italia. Sì, dalla Croazia agli italiani che prenotano. Sì a Germania, Austria, Cina, Svizzera, Corea del Sud, no a Spagna, Italia e Francia. Dal 15 giugno la Grecia apre i confini a 29 paesi, ma non ai tre con il maggior numero di contagi in Europa, compreso quindi il bel paese, che ottiene un sì dalla Croazia. Ieri il premier croato Andrej Plenković ha annunciato l'apertura delle frontiere a 10 stati, esclusa l'Italia. Oggi il dietrofront, confini riaperti ai turisti italiani con prenotazione alberghiera da esibire alla dogana, e un'apertura arriva dall'Austria. Il 15 giugno toglieremo i divieti di spostamento con Germania, Liechtenstein, Svizzera, e stiamo parlando con altri paesi come l'Italia, ha dichiarato il cancelliere Sebastian Kurz. Ancora chiusi i confini svizzeri, mentre mercoledì apriranno le frontiere italiane. Spostamenti consentiti da Unione Europea, Stati Schengen, Regno Unito, Irlanda del Nord e Principato di Monaco. Per la Francia la data il 15 giugno, per la Spagna l'1 luglio. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per parlare appunto di tutta questa circolazione di turisti oppure no, parleremo con, sarà ospite qui effetto note tra poco, il sottosegretario agli esteri Manlio Di Stefano. Intanto spostiamoci sull'economia con l'allarme lanciato oggi dalla Banca d'Italia. La più grande crisi sanitaria ed economica della storia recente, così l'ha definita il governatore di Banca Italia Ignazio Visco nelle considerazioni finali. Il PIL italiano scenderà quest'anno del 9% almeno e fino al 13% nello scenario peggiore. Finita la pandemia avremo livelli di debito pubblico e privato molto più alti e un aumento delle disuguaglianze. La crisi, stima Banca Italia, colpirà le famiglie più povere il doppio rispetto a quelle più ricche e gli autonomi più dei lavoratori dipendenti. Sono importanti, secondo Visco, gli interventi del governo italiano e dell'Unione Europea, ma non basteranno se l'Italia non saprà cambiare. L'economia italiana deve trovare la forza di rompere l'inerzia del passato e recuperare una capacità di crescere che è da troppo tempo appannata. Serve una pubblica amministrazione più efficiente, migliori infrastrutture fisiche e digitali, più spese e più qualità nella scuola e nella ricerca, combattere l'evasione per abbassare la pressione fiscale. Le imprese devono diventare più tecnologiche e innovative. Ce la faremo partendo dai punti di forza di cui qualche volta ci scordiamo, affrontando finalmente le debolezze che qualche volta non vogliamo vedere. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E secondo l'Istat, dice che crolla la spesa delle famiglie del 7,5% nel primo trimestre dell'anno. Nel dibattito sulle riaperture resta in primo piano anche la scuola. Si pensa ormai alla ripresa di settembre, ma i sindacati vanno verso uno sciopero per l'8 giugno. Il fronte della scuola è una polveriera e alle rassicurazioni della ministra Azzolina fanno da contraltare le preoccupazioni dei presidi e lo sciopero proclamato dai maggiori sindacati di settore per l'8 giugno. A settembre riporteremo studenti e studentesse tra i banchi. Lo faremo anche seguendo le indicazioni del documento del Comitato Tecnico Scientifico, dice la ministra, che aggiunge: il piano definitivo per gli aspetti didattici sarà pubblicato il prima possibile. Tra le indicazioni principali del comitato, il distanziamento interpersonale di 1 metro, mascherine per tutti, esclusi casi di disabilità e bambini sotto i 6 anni, sanificazione quotidiana, limitazione degli assembramenti, scaglionamenti degli orari, ingressi vietati con febbre sopra i 37,5 gradi, dispenser con igienizzanti in più punti della scuola. Ma per il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli, il documento del CTS non offre soluzioni, compie riflessioni anche utili, ma ne rimanda l'attuazione ai dirigenti scolastici. Se organici e classi sono quelle che sono, gli edifici sono vecchi, poco flessibili e a volte non a norma, come fa un dirigente scolastico, si chiede Giannelli, che aggiunge: da decenni non si investe in edilizia scolastica. Con la pandemia, insomma, i nodi vengono ancora più al pettine. Si è stimato che per mettere a norma il patrimonio edilizio scolastico servirebbero 200 miliardi. Ora il decreto prevede una velocizzazione degli interventi. Sindaci e presidente di province, città metropolitane potranno operare con poteri commissariali. Un'altra sfida nella sfida. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il tema della giustizia nel dibattito sulla magistratura, sui suoi vertici, nato dalle intercettazioni sul caso Palamara, interviene il presidente della Repubblica Mattarella, che in una nota ricorda: per quanto superfluo, va chiarito che il capo dello Stato si muove, deve muoversi nell'ambito dei compiti e secondo le regole previste dalla Costituzione e dalla legge. Non può sciogliere il Consiglio Superiore della Magistratura in base a una propria valutazione discrezionale. Parliamo di caporalato sui rider. Il Tribunale di Milano commissaria la filiale italiana di Uber per il servizio di food delivery Uber Eats. Il reato contestato è quello previsto dall'articolo 630 bis, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Articolo inserito 5 anni fa nel codice penale per contrastare il caporalato. La sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto l'amministrazione giudiziaria, ossia il commissariamento di Uber Italy, in relazione alla gestione dei rider addetti alle consegne di cibo a domicilio attraverso il servizio Uber Eats. Condanniamo ogni forma di caporalato attraverso i nostri servizi in Italia, fa sapere in una nota il gruppo americano. Secondo i giudici, Uber, attraverso società di intermediazione di manodopera, avrebbe sfruttato migranti e richiedenti asilo in stato di bisogno, reclutati in una situazione di emarginazione sociale, con un regime di sopraffazione retributivo, 3 euro a consegna. Situazione aggravata dall'emergenza sanitaria che ha comportato reclutamenti a valanga non controllati. Dalle carte emergerebbero anche minacce e punizioni economiche. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ora all'estero scatta di nuovo l'allarme in California, dove si è registrato il più alto numero giornaliero di nuovi casi di contagio, ben 2617 in 24 ore. Negli Stati Uniti sono state registrate altre 1297 vittime e fino ad arrivare al bilancio di 101.573 morti. E poi sono 1.156 decessi in Brasile nelle ultime 24 ore. In tutta l'America Latina i contagi sono 878.000 e 46.600 i morti. E a proposito invece di Stati Uniti e della situazione appunto legata al coronavirus, vi leggevo poco fa l'annuncio di Donald Trump, che ha deciso di interrompere la relazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E poi rispetto invece all'omicidio da parte di alcuni poliziotti che l'hanno tenuto stretto e quindi soffocato un afroamericano quarantenne nei giorni scorsi, e quindi la città che è stata messa a fuoco e fiamme dalle persone che hanno protestato. Bene, Derek Chauvin, l'agente che ha provocato la morte di George Floyd, l'afroamericano di Minneapolis, è stato accusato formalmente di omicidio colposo. Le indagini sono ancora in corso. In Italia, con la cronaca, il GUP del Tribunale di Taranto Vilma Gilli ha condannato a 10 anni di reclusione un 19enne, un 23enne e a 8 anni e 6 mesi un 23enne di Manduria, accusati, ricordate, di aver partecipato alle aggressioni e ai danni del 60enne pensionato di Manduria, Cosimo Antonio Stano, morto il 23 aprile del 2019 dopo torture e percosse. Per quanto riguarda il reato di tortura contestato ai 3 imputati, attualmente agli arresti domiciliari è caduta l'aggravante della sopraggiunta morte della vittima. Cinema, la Pixar fa storia presentando per la prima volta un corto con protagonista, un cartone animato, un personaggio gay. Out è il titolo, di 9 minuti, e sulla piattaforma streaming Disney Plus. La nuova storia della casa di animazione parla di un giovane di nome Greg, il quale ha timore di rivelare ai propri genitori la sua omosessualità. Out è stato scritto e diretto da Stephen Clay Hunter, che è lo stesso di Toy Story 4 e Finding Dory, e fa parte della serie Spark Shorts, che ha l'obiettivo di scoprire nuovi narratori e sperimentare con tecniche diverse. 40 anni fa, nel giugno 1980, l'Uprising Tour di Bob Marley fece tappa allo stadio Meazza di San Siro a Milano e allo stadio comunale di Torino. La prima volta e purtroppo anche l'ultima del re del reggae nel nostro paese. Il messaggio di Bob Marley è attuale, forse più chiaro oggi di quell'estate di 40 anni fa, come ci racconterà Marta Cagnola nel reportage in onda domenica alle 8.15, insieme a chi visse quel concerto e fece una delle pochissime interviste italiane, cioè il giornalista Massimo Poggini. Questo successe pochi mesi prima del mitico concerto di San Siro. Lui venne in Italia per un giro promozionale, e la cosa strana che detta oggi può appunto far pensare come funzionavano le cose una volta, che io dovetti insistere parecchio col direttore del giornale Corriere Boy o Boy Music, a seconda dei casi, che era comunque, voglio dire, un giornale metà musica e metà fumetti che vendeva le sue belle 400.000 copie, che insomma erano una cosa così. Ecco, io dovetti tornare dal direttore per 3 volte. Alla terza volta lo convinsi, perché gli portai una foto di Bob Marley, che poi è diventata famosissima, di lui che giocava a pallone. L'intervista avvenne in un albergo qui a Milano, che era l'Hotel Cavalieri in Piazza Missori, e lui era in questa suite molto grande, credo la suite più grande che c'era in questo albergo, ed io entrai dentro e c'era praticamente una situazione tipo nebbia fortissima a Milano, che non era nebbia. Io attraversai questo salone abbastanza grande, lui era seduto giù in fondo in questa poltrona rossa tipo un re. Quando io arrivai, non essendo abituato a nessun tipo di consumo di niente, già avevo la testa che mi girava. A memoria credo che parlammo un 20-25 minuti, una cosa del genere, però eravamo soltanto io e lui. Per noi, tieni conto che era tutta una novità, cioè il fatto dei Rasta, noi in Italia lo venimmo a scoprire con lui in quei giorni. Bene, per chiudere il calcio, i club di Serie A maschile hanno votato all'unanimità di ricominciare il campionato disputando i 4 recuperi della 25esima giornata nel fine settimana dal 20 al 21 giugno, la programmazione della 27esima, scusate, a partire da lunedì 22 giugno. Devo chiudere velocemente, c'è la viabilità e poi bisogna cominciare a approfondire i temi con gli ospiti. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Moltissime notizie anche oggi, ve l'ho riassunte adesso nella prima parte, adesso addentriamoci in alcune in particolare. I vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Ringrazio Giordana che mi dice che mi dedica la rosa più nobile e bella, rosa bianca per me del suo giardino, un trionfo di colori. Meno male, un po' di colori, un po' di serenità ci vuole, visto che il momento è ancora abbastanza difficile in senso generale. Poi invece un ascoltatore vorrebbe avere informazioni sui italiani expatriati in Europa e dice che potrebbero rientrare il 3 giugno. Adesso vediamo se possiamo addentrarci in cose così dettagliate. Però avete sentito nella prima parte i dati della Protezione Civile, come ogni giorno sul coronavirus, le valutazioni dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute, che dicono in sintesi i dati del monitoraggio sono incoraggianti, i sacrifici che abbiamo fatto durante il lockdown hanno prodotto questi risultati, dobbiamo continuare sulla strada intrapresa però con gradualità e cautela. Questa è un po' la sintesi. Tutto questo in vista della tanto attesa, fatidica data del 3 giugno, che è sempre più dietro l'angolo perché è lunedì, giorno in cui dovrebbe iniziare la terza tappa della fase 2, cioè la ripresa della mobilità tra le regioni. In questi giorni vi ho raccontato anche attraverso i protagonisti tutte le tensioni tra regioni e sindaci, tra regioni e governo, di cui torneremo a parlare più tardi. Dico solo che in queste ore Conte dovrebbe incontrare i capi delegazione dei partiti e alcuni ministri proprio per una riunione per fare un po' un punto per quelle che saranno riaperture del 3 giugno. Ma nella medesima data del 3 giugno, quindi di lunedì, se rispetto alla notizia di un po' di giorni fa che avevo dato in diretta e che avevo commentato non è cambiato nulla, l'Italia dovrebbe aprire le frontiere il 3 giugno alla libera circolazione dei cittadini europei dell'area di Schengen, cioè dove appunto c'è questo accordo di libera circolazione in Europa delle persone. E se la previsione sia tuttora questa, lo chiedo al sottosegretario agli esteri Manlio Di Stefano, che ringrazio per la disponibilità. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera, grazie per l'invito. Ecco, quindi non ho più visto parlare più di tanto, ma è vero che quindi dal 3 giugno apriamo le frontiere ai cittadini europei, Di Stefano? Dunque, noi stiamo gestendo come Farnesina la questione sempre in raccordo con le autorità scientifiche, chiaramente, perché sarebbe quasi deleterio lavorare su una riapertura delle frontiere internazionali quando ancora magari non abbiamo riaperto quelle regionali. Quello che penso anch'io e pensavo già qualche settimana fa, esatto, quando vidi la notizia, sì. Esatto, ora ovviamente la nostra aspettativa, i dati ad oggi lo confermano, è di riaprire le frontiere regionali e di conseguenza poter creare poi le condizioni per la mobilità anche dei turisti, perché l'Italia poi è un paese geograficamente piccolo, i turisti tendenzialmente tendono a venire e girare più parti d'Italia, quindi quello è un prerequisito fondamentale. E nonostante questo, il ministro Di Maio ha già avviato una serie di visite previste, tant'è che il 5 andrà in Germania, il 6 in Slovenia e il 9 in Grecia, proprio per sbloccare alcuni attriti che ci sono stati probabilmente sul coordinamento turistico. E il 3, quindi lunedì, verrà in Italia il ministro degli esteri francese, Le Drian, si parlerà anche chiaramente di turismo. Ma è chiaro che c'è un obiettivo comune di tutti i paesi europei, che è quello di avere una mobilità turistica piena e come è sempre stata, perché poi gran buona parte dei paesi europei hanno nel turismo una quota enorme del loro PIL, come l'Italia ad esempio, no? Quindi questo è il quadro. Alcuni paesi a noi più ostili, non dobbiamo nasconderci, abbiamo parlato più volte, tipo l'Austria, stanno utilizzando magari qualche scusa di troppo per creare un po' di concorrenza sleale dal mio punto di vista, ma è chiaro che questi quadri andranno sbloccati e lo si farà con un'azione forte appunto dopo che riapriamo i confini regionali, per evitare di sparare a salve, come si vuol dire, e avere le carte in regola per poter pretendere la riapertura. In effetti, sottosegretario Di Stefano, visto che appunto si sta andando ancora coi piedi di piombo sulle riaperture delle regioni e ancora state riflettendo come governo sul da farsi per il 3 giugno, sarebbe appunto, prima ancora che una discriminazione nei confronti dei cittadini italiani, un grosso paradosso, no? Che potessero entrare cittadini europei in Italia liberamente e che in Italia invece tra regioni ci siano dei problemi a spostarsi, no? Certo, il non detto in questi giorni infatti è che la data più ipotizzabile di riapertura interna della mobilità europea è dal 15 di giugno, non dal 3. Questo è delle voci, però ripeto, tutti i paesi europei, guardi, io in questi ultimi 10 giorni ho fatto almeno 2 call al giorno con ministri e viceministri di altri paesi, lo stesso ha fatto il ministro Di Maio. E tutti, lo dico veramente senza rischio di essere smentito, perché abbiamo anche comunicati pubblici, tutti stanno guardando all'Italia per capire cosa fare, nel senso che abbiamo in effetti, purtroppo perché siamo stati colpiti per primi, nel bene e nel male, dettato un po' l'agenda dei tempi del coronavirus, no? Quindi sia nelle soluzioni che abbiamo trovato che anche nella durata di alcune problematiche. E quindi diciamo che il 3 giugno italiano sarà visto con tanta attenzione da tutti gli altri paesi per capire come muoverci poi congiuntamente. E io spero che la grande responsabilità che stanno manifestando gli italiani, e per i quali li ringrazio, porti i suoi frutti, e finora sta succedendo questo. Senta, a proposito quindi, dicevo, della Grecia che riapre le porte a 29 paesi tranne l'Italia, dice poi il 1 luglio ci riaggiorniamo. Beh, non a caso il ministro Di Maio il 9 va in Grecia. Quindi si fa sentire, diciamo, no? Esatto. Se i greci ci vogliono ancora, è bene che aprano presto, perché altrimenti uno non può neanche prenotare. La Grecia quest'anno è ben a secco di italiani. Sì. Diciamoci chiaramente una cosa, c'è anche molta retorica politica a volte dietro queste cose. Sappiamo noi italiani benissimo quanto il popolo italiano ami la Grecia a livello turistico. Certo. Quindi i greci non sono così stupidi da pensare di poter fare a meno del turismo italiano. Me lo auguro. Lo stesso vale per noi, chiaramente. I tedeschi sono il primo popolo europeo che viene in vacanza in Italia. Sarebbe folle pensare che la Germania blocchi il turismo verso l'Italia. Senta, sottosegretario Di Stefano, visto che c'è questo ascoltatore che così lancia il suo grido, Marco, dice: per favore, qualche informazione anche per i cittadini italiani espatriati in Europa, possono rientrare il 3 giugno, nel mio caso in particolare dalla Germania, grazie e saluti da Heidelberg. Non so se è lo stesso il quadro. Intanto diciamo che il problema è stato legato in realtà molto alla logistica in questi mesi, nel senso che mancavano proprio i voli. Ora, come vedete, molte compagnie stanno riaprendo. Il problema è quello, come sapete, della quarantena obbligatoria per alcuni. Gli italiani residenti all'estero di fatto hanno avuto fino ad oggi le stesse regole dei turisti sostanzialmente, cioè non potevano tornare. Quindi il mio messaggio a Marco è un altro po' di pazienza, perché ormai siamo addirittura di arrivo. Chiaramente riaprendo i confini nazionali li apriremo a tutti. Questo è però veramente voglio ricordare a tutti che questo è un sacrificio che anche loro hanno fatto, e li ringrazio, perché non potevamo controllare poi la mobilità sul territorio di chi arrivava da fuori, perché la quarantena diventava complicata da imporre. Quindi l'abbiamo fatto per proteggere anche appunto i loro familiari con i quali si sarebbero ricongiunti. Sottosegretario Di Stefano, prima di lasciarci, non è che lei già sa qualcosa, qualche anticipazione di che succede lunedì? Boh, per ragioni. No, davvero. Niente, perché, bocca perché c'è un coordinamento frenetico e non è difficilmente immaginabile, molto complesso. Quando arriverà, stasera o domani, la risposta, la decisione? No, questo lo gestisce il Presidente Conte insieme alle regioni, davvero. Non insisto, va bene. Esatto. Grazie sottosegretario Mario Di Stefano, grazie, buona buon serata, lavoro. Arrivederci. Salve. Credo che siano volgari, stupide e intollerabili guerre di religione fra nord e sud, con questi chiari di luna. Questo naturalmente l'impareggiabile Vincenzo De Luca, presidente della Campania. Vedo una cosa importante in questo momento, un aggiornamento in presa diretta che vi do. Il decreto legge vigente prevede dal 3 giugno la ripresa, è Speranza che parla, la ripresa di spostamenti infraregionali. Al momento non ci sono ragioni per rivedere la programmata riapertura degli spostamenti. Hai capito, cara Barbara Fiammeri? Al momento, scusami? Al momento, Barbara era distratta, adesso te lo rileggo. Questo è Speranza sì, interpellata. Sì, sì, vai. Vado. Il decreto legge vigente prevede dal 3 giugno la ripresa degli spostamenti infraregionali. Al momento non ci sono ragioni per rivedere la programmata riapertura degli spostamenti. Perfetto. Hai capito, Barbara? In esclusiva mondiale ti ho dato questa notizia, eh? No. La stavo già scrivendo, per questo ti ho chiesto di riconfermarmela, perché prima ancora che Speranza parlasse, sì. Avevo già avuto notizia da quelle parti che sfera che di cristallo. Era la strada, e quindi adesso da te volevo la conferma che non stessi scrivendo qualcosa di sbagliato. Bene, allora ti ho dato la conferma in anteprima mondiale, va bene? Oh. Sì, va quindi benissimo. Barbara, posso venirti a trovare in qualsiasi momento dal 3 giugno, probabilmente. Certo, da lunedì. Certo. Aspettami. Dal 3 giugno potremmo tornare a vederci. Allora, tutto è bene quel che finisce bene. Se è finita la questione, sì. Speriamo. Sì, Stefano neanche lo sapeva, hai visto? Perché attenzione, dice monitoreremo ancora nelle prossime ore l'andamento della curva. Questa è una... Vabbè, ma questo è ovvio, cioè, questo... monitoreranno, però per la cosa importante che nelle parole che tu hai appena letto di Speranza, che potremmo dire di speranza in tutti i sensi. Chiaro. In questo caso è che hanno deciso di non modificare il decreto, quello che aveva riaperto i negozi, no? E che prevedeva dal 3 giugno di... Quel decreto prevedeva questo, per cui il governo se avesse voluto rinviare ad esempio questa riapertura, doveva modificare quel decreto con un altro provvedimento, non con un DPCM, serviva un altro decreto. Questa notizia quindi insomma ci rende tutti sicuramente più lieti, e la cosa importante è che riaprono tutte le regioni, perché una cosa che si era chiarita già diciamo da almeno un paio di giorni che avevamo capito è che il governo sicuramente non voleva una riapertura differenziata. Sì. Cioè, voleva che si andasse avanti tutti insieme, oppure tutti insieme perché, ancora chiusi. Sì, anche perché era molto complicato da tanti punti di vista una riapertura differenziata. Sottolineo, non so se l'ha già detto Di Stefano, però lo ripeto, noi siamo esclusi da alcuni paesi che ci considerano ancora parlavamo della Grecia, ma anche l'Austria e diversi altri. E sarebbe molto difficile fare una battaglia in Europa per farci riconoscere il diritto di libera circolazione se all'interno del nostro territorio noi facessimo la stessa cosa. Cioè, perché finora lo sapevamo, insomma, l'ho raccontato lungamente in tutti questi giorni anche con i protagonisti, i presidenti di regione, sindaci eccetera, che ci sono coloro che puntavano il dito nei confronti della Lombardia in particolare, perché in effetti finora è stata quella più colpita, è stata quella con i livelli di contagio e di decessi più alto, e purtroppo ultimamente si parlava anche di Piemonte e Liguria, però c'erano sia in realtà da una parte che dall'altra di schieramenti politici, presidenti di regione o sindaci che dicevano no, attenzione, noi non vogliamo che dal 3 giugno ci siano liberi tutti, se la Lombardia ha dei livelli più alti di contagio bisogna aprire in modo differenziato. E fra le volevi dire qualcosa, Barbara? Ti sento sospirare. Sì, volevo dire sotto, che sì. È vero che la Lombardia, e anche oggi, gli ultimi dati, quelli di oggi, confermano che la Lombardia continua ad avere un livello di contagio alto, però non a caso il ministro della Salute, Speranza, nei giorni scorsi aveva spiegato che ci sono ben 21 indicatori per decidere qual è, come dire, il livello di rischio. Perché dico questo? Perché si è visto però che invece in Lombardia, come nel resto d'Italia, ma anche e soprattutto in Lombardia, continuano sempre di più a scendere il numero dei pazienti che vengono ospedalizzati e il numero dei pazienti che finiscono in terapia intensiva. Questo cosa significa? C'è chi ha parlato di un affievolimento del virus, c'è chi ha parlato. Stiamo ai fatti. Come dire, ancora non abbiamo delle certezze scientifiche sul perché questo sta avvenendo, però stiamo vedendo, e i dati ci confermano, che le persone stanno meno male, quindi la pressione sugli ospedali, che è stata la cosa peggiore che ha subito soprattutto la Lombardia, che ha sopportato la Lombardia e che spaventava le regioni del sud che avevano un sistema meno efficiente, questa pressione sugli ospedali non c'è più. Cioè, tant'è che hanno riaperto in Lombardia negli ospedali tutta una serie di prestazioni che erano rimaste ferme proprio per altri tipi di patologie COVID, anche molto gravi. Barbara, devo aver detto lunedì, chiaramente è mercoledì il 3 giugno, perché c'è di mezzo il ponte, lunedì l'1, il 2 è la festa, eccetera eccetera. Questo è stato fatto apposta, ovviamente, sì, infatti, per non per far partire l'esodo durante il ponte. Anche se mi chiedo, per esempio, l'assessore alla sanità del Lazio, perché per lo più si diceva che erano le regioni del sud, in particolare la Sardegna, ecco, mi chiedo adesso, per esempio, Solinas della Sardegna, visto che ieri ho avuto anche un costituzionalista che diceva non può una regione, l'articolo 120 della Costituzione, fare una barriera rispetto a cittadini italiani da altre regioni che vanno in Sardegna, quindi mi chiedo a questo punto che cosa farà un ricorso, si impunterà, però non sono soltanto di centrodestra i presidenti di regione o sindaci che sono un po' sul piede di guerra, perché per esempio oggi anche l'assessore alla sanità del Lazio, che sappiamo che il presidente del Lazio è Zingaretti, nonché segretario del Partito Democratico, quindi è del PD, dice: voi pensate che se ci sarà il via libera agli spostamenti interregionali tutti i milanesi andranno solo in Sardegna? Sapete quanti treni ci sono ogni giorno tra Roma e Milano? Io spero che ci sia un grande scrupolo nel prendere decisioni, vedo troppe pressioni da parte del nord perché il nord riparta. Quindi è lo stesso Rossi, presidente della regione Toscana, diceva non vogliamo discriminazioni, però è un fatto che la Lombardia, quindi bisogna vedere adesso dopo questa c'è un altro aggiornamento, aspetta, Boccia, ministro per gli affari regionali, vediamo cosa dice: sentirà i presidenti delle regioni nelle prossime ore per continuare a confrontarsi sull'apertura agli spostamenti infraregionali dal 3 giugno, quindi un conto era il messaggio di Speranza in tutti i sensi. No, non c'è una contraddizione. No, non c'è. E perché deve continuare a sentirli se tanto si è deciso? Significa che prima della riapertura ci sarà un confronto con le regioni, perché quel decreto di cui io ti ho parlato, quello che prevede la fine del divieto di circolare il 2 giugno, prevede anche lo stesso decreto che con un DPCM, i famigerati DPCM, si possono prevedere delle restrizioni. Restrizioni che non significa la Lombardia non circola, tanto per essere chiari. Restrizioni che possono voler dire, ad esempio, che si potrà, adesso faccio un esempio assurdo, che si potrà circolare soltanto in orario diurno e non notturno, o viceversa, non lo so. Cioè, si possono prevedere delle restrizioni con DPCM, ma cade cade la barriera dei confini. Quindi cosa ci sta dicendo Boccia adesso? Ci sta dicendo che avrà un incontro con le regioni, proprio secondo me, per cercare di rispondere a quelle preoccupazioni di cui parlavi poc'anzi tu, dei governatori tendenzialmente del centro-sud rispetto a possibili esodi dal nord. È chiaro che dovranno, io mi permetto sommessamente di dire, di dare un suggerimento, cioè penso che tra le ragioni come dire, per cui oggi si muore meno e soprattutto ci, come dire, è meno violento questo virus, è che ha perso una carica, una forza, e questo perché grazie al fatto che noi siamo stati bravi a mantenere le distanze e continuiamo a mantenere le mascherine. E quindi questa cosa bisogna farla, di mantenere le distanze. Questa cosa qui, ecco, cioè, la cosa che è sbagliata secondo me, e basterebbe guardare quanto avviene in Germania, perché è vero che sono teutonici, sono un po' ottusi, però poi sul rispetto delle regole è importante. Allora, cosa significa? Loro possono fare tutto, si possono muovere, però sono attenti a rispettare certe, estremamente, come dire, certe... responsabili. Barbara, io ti sento entusiasta di questa cosa, non ti fermeresti più. Si circola, questa cosa era terribile. Allora vengo a trovarti verso il 3, mercoledì 3, sono lì davanti alla tua Milano, porta. Guarda, e tu vieni a Milano, quindi io vengo lì, non ti trovo, e tu vieni qua. Vabbè, ottima conclusione, grazie. Barbara Fiammeri, un abbraccio, prestissimo. Ciao Barbara, viva la libera circolazione, se così sarà. Ci fermiamo momentaneamente per una pausa di riflessione. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri messaggi. Ci sentiamo a momenti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Prima di partire per un lungo viaggio devi portare la voglia di non tornare più, dice, scrive un ascoltatore su pagina Facebook di Effetto Notte, Claudio, a proposito di una bellissima canzone di Irene Grandi, scritta se non sbaglio da Vasco Rossi, perché abbiamo appena detto, Roberto Giordano sempre con voi, vi ho letto, anzi in diretta, dopo aver sentito il sottosegretario agli esteri Manlio Di Stefano, sulla possibilità di circolazione dal 3 giugno anche di cittadini dell'area Schengen dell'Unione Europea verso l'Italia, con Barbara Fiammeri, commentatrice politica del Sole 24 Ore, avevo dato la notizia in esclusiva mondiale del ministro della Salute e Speranza, che ha detto il decreto legge vigente prevede dal 3 giugno la ripresa degli spostamenti infraregionali. Al momento non ci sono ragioni per rivedere la programmata riapertura degli spostamenti, per cui anche se il ministro Boccia per gli affari regionali poco fa ha detto nelle prossime ore vedrò i presidenti di regione, sembra al momento che possa essere confermata la riapertura, la mobilità tra regioni dal 3 giugno, però aspettiamo poi naturalmente una decisione definitiva. Adesso, a proposito di mobilità, tra i settori che pur tra le varie difficoltà stanno ripartendo c'è anche ovviamente quella dell'autotrasporto, assolutamente fondamentale in ogni paese. Le associazioni di autotrasportatori hanno avuto ieri un incontro col Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e che avrà poi una seconda tappa proprio il 3 giugno, una data particolarmente centrale in questi giorni. Cosa è stato detto e quali sono le istanze di un settore così importante e così strategico? Lo chiedo a Massimo, al nostro Massimo De Donato, che conduce su Radio 24 il sabato Container alle 13.10 e Strade Motore alle 22.05. Massimo, buonasera. Ciao, buonasera, grazie per l'ospitalità. Grazie a te. Quindi, insomma, che cosa è stato chiesto dagli autotrasportatori? Quali sono le questioni sul tavolo, Massimo? Beh, sono tante, come hai ricordato tu. In realtà il mondo dell'autotrasporto non si è mai fermato. Ha lavorato sicuramente a ranghi ridotti, soprattutto nella fase del lockdown, perché con la chiusura degli impianti produttivi ovviamente anche il tema della distribuzione è in qualche modo venuto meno. Ha lavorato esclusivamente per la grande distribuzione organizzata, per le farmacie, sostanzialmente per distribuire quindi viveri e medicinali. Tutto questo ha avuto delle ripercussioni importanti su questo settore che, pur lavorando a pieni costi, ha incassato meno del 40% secondo le ultime statistiche rispetto agli incassi normali, quindi dovendo sostanzialmente garantire anche la mobilità delle merci in un periodo così difficile è stato costretto praticamente a non fermarsi pur sopportando una serie di costi. Ed è questo uno dei temi che è stato affrontato in prima battuta nell'incontro che si è svolto ieri pomeriggio e che sarà ripreso questo incontro il mercoledì 3 proprio per cercare di arrivare ad una conclusione sulle diverse istanze che questo settore rivendica. Tra l'altro ricordiamo che sono nostri grandi ascoltatori, gli autotrasportatori vanno su e giù per l'Italia e non solo, e naturalmente la radio fa tanta compagnia, e ovviamente la radio è Radio 24, no Massimo, ti risulta, è vero? Risulta anche a me, risulta anche che c'è una trasmissione, due trasmissioni, perché oltre ai container che vanno del sabato c'è hashtag autotrasporto di Andrea Ferro il lunedì, che in qualche modo racchiude tutte le informazioni sul settore, quindi è un settore che seguiamo con grande attenzione, così come seguiamo le varie istanze appunto che stanno portando avanti le associazioni in questo momento. Ne cito solo due velocissime, una è quella legata ai tempi di pagamento. Purtroppo questo è un settore che soffre molto la dilazione dei tempi di pagamento, e la ministra Di Michele, la ministra delle infrastrutture e dei trasporti, ha già ribadito nel corso dell'incontro di ieri che si sta lavorando ad un provvedimento che sarà inserito nel decreto semplificazioni per ridurre al massimo appunto questi tempi di pagamento anche per le imprese trasporto. Ci sono poi altre tematiche che sono quelle dei costi di riferimento, e anche in questo caso la ministra ha annunciato dei provvedimenti che saranno poi spiegati il 3 giugno, e noi ovviamente seguiremo con grande attenzione l'evoluzione di questo dibattito già a partire dalla puntata di Contender il sabato successivo. Benissimo, grazie Massimo Di Donato, allora buon lavoro. Grazie a te. Ciao, grazie Massimo, a te. E buona serata. Adesso c'è la viabilità, ma tra poco andiamo sull'inchiesta, l'indagine che sta facendo la procura di Bergamo sulla gestione, su una parte della gestione dell'emergenza coronavirus in Lombardia. Tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Queste che sentite sono le contestazioni nei confronti oggi fuori dalla procura di Bergamo, nei confronti del presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, dove la procura di Bergamo, dove è stato ascoltato. Ne parliamo con la nostra Sara Monaci del Sole 24 Ore. Ciao Sara. Sì, ciao, buonasera. Perché è stato ascoltato dai magistrati nell'ambito di questa delle indagini bergamasche, per capire soprattutto che cosa sia successo ad Alzano Lombardo e Nembro, che sono stati gli altri focolai in Lombardia, dove però non è stata istituita immediatamente la zona rossa, e di lì insomma un macello e tantissimi morti, soprattutto appunto nell'area della Bergamasca. Sara, quindi è stato sentito come persona informata sui fatti Attilio Fontana, sì, così anche Gallera, l'assessore al welfare della Lombardia, e se non sbaglio anche Bonometti di Confindustria Lombardia, no Sara, in questi giorni? Sì, verrà ascoltato anche Marco Bonometti di Confindustria Lombardia. Ovviamente si tratta di persone informate dei fatti, e al centro della vicenda c'è principalmente, più che la zona rossa, proprio la chiusura dell'ospedale di Alzano, di cui si era parlato nella notte del 23 febbraio, dopo la rilevazione di due casi di coronavirus, a seguito, ricorderete, del primo caso del paziente 1 di Codogno. Da allora c'è stato un andirivieni tra richieste e permessi non dati, quindi la struttura di Alzano chiese di chiudere, la struttura di Bergamo, da cui dipendono, chiese l'autorizzazione alla regione, che invece lo negò, perché evidentemente erano stati rassicurati i vertici dalla sanificazione. Lo sottolineo perché evidentemente dal punto di vista penale è difficile mettere sotto accusa la decisione di una zona rossa, anche se chiaramente è questo il contesto e probabilmente i procuratori arriveranno anche a questo, perché bisogna partire da un caso, una fattispecie circoscritta, per poter vedere se c'è stata una mancanza, una negligenza, un dolo, una colpa, e quindi bisogna arrivare ad un punto ben preciso, un avvenimento all'interno di un territorio. Subito dopo c'è stato il problema, è vero, della zona rossa. La Lombardia, questo lo avrebbero detto oggi Fontana, ma giorno prima, ieri, anche Gallera, lo avevano richiesto. La regione però avrebbe forse, chissà, potuto farla da sola, e il governo aspettava che forse la regione si aspettasse la responsabilità. il governo invece avrebbe potuto farlo, ma non lo ha fatto e preferì fare la zona arancione. Ormai questo è quasi diventata storia, lo sappiamo, una storia recente, ma ricordiamo un po' quei giorni frenetici in cui si chiedeva una zona rossa in Valseriana. Per una settimana tutti quanti, anche noi giornalisti, si aspettavano che arrivasse, arrivò anche l'esercito, ma poi il governo decise la zona arancione e solo 3 giorni dopo la zona rossa in tutta Italia. Molti si chiedono se da questa decisione poi ci sia stato un mancato contenimento, magari andava fatto in modo più mirato questa zona rossa, non in tutta Italia, non nella Lombardia in modo più generico, con la possibilità però all'interno dei territori di spostarsi, ma proprio isolare Nembro e Alzano. Oggi a onor del vero il procuratore generale Maria Cristina Rota, che sta il procuratore aggiunto di Bergamo Maria Cristina Rota, che sta coordinando le indagini, ha detto che per quanto le risulta al momento la responsabilità è effettivamente del governo, perché infatti come dicevi sia Gallera che Fontana, quando è stato chiesto perché non avete decretato la zona rossa Alzano Lombardo e Nembro, che magari avrebbe frenato quella che è stata poi una strage in quell'area, ricordiamo i camion di notte con le bare, no, che uscivano dall'ospedale e dal cimitero di Bergamo per andare anche in altre regioni, come dici tu la procuratrice avrebbe detto che secondo quanto le risulta aspettava quella decisione non alla regione, perché così hanno detto Fontana e Gallera, non aspettava a noi ma al governo, dice effettivamente al governo risulterebbe, Sara. Sì, va detto che c'è un po' di confusione su questo, perché è vero, la regione ha sempre ribadito questo, chiedeva la zona rossa ma non la faceva, non la poteva fare, questo diceva, perché le attività produttive spettano al governo. Vanno dette due cose secondo me. La prima, che è vero, può darsi che formalmente dipenda dal governo, poi bisogna vedere se poi in una situazione di emergenza si può agire, come poi aveva promesso di fare anche Zaia in Veneto. Dall'altra parte, e poi va anche sottolineato che Gallera però su questa versione ha detto varie cose, proprio dichiarandosi anche a mezzo stampa, cioè ha detto che poche settimane fa, a riguardare indietro i fatti, studiando meglio la normativa, probabilmente si poteva fare anche in sede regionale. Sono tutti forse ipotesi, anche perché abbiamo visto in questo periodo quanto noi stessi giornalisti, ma in generale anche i giuristi, si sono dovuti cimentare nell'interpretazione se contano di più le decisioni locali o quelle governative, o come convivono le une con le altre. Siamo arrivati alla conclusione, che però non è sancita da nessuna parte, ma diciamo un'interpretazione, che lo Stato decide e la Regione può soltanto fare delle norme restrittive ma non allargare. Ecco, queste sono interpretazioni che derivano dal fatto che non c'è una storia su questo, noi non abbiamo mai visto cadenza così forte, così incessante di ordinanze, decisioni, decreti, circolari che interpretano, lo ricordo, siamo insomma intorno ai 200 documenti nell'arco di questi 3 mesi e quindi è anche difficile capire da chi dipende la responsabilità. Questo però è ciò che attiene alla politica, ciò che attiene invece alle indagini penali è capire se c'è una colpa, perché una responsabilità di pandemia, perché ovviamente la decisione politica si può criticare, ritenere anche discutibile e decidere di non votare più le persone che abbiamo eletto poco prima, però in tribunale invece si guarda il codice penale, lo dico perché appunto secondo me la zona rossa è un contesto molto importante, ma poi diventa molto più penalmente interessante valutare cosa è accaduto secondo me quella notte ad Alzano, perché poi è da lì che è partito il focolaio che poi avrebbe contagiato tutta la zona della Valseriana. Abbiamo visto in questo periodo, sono stati soprattutto gli ospedali, ahimè, i pronti soccorsi ad essere veri e propri focolai. Comunque insomma le indagini vanno avanti, saranno ascoltate appunto altre persone informate sui fatti e speriamo comunque di fare chiarezza. Se ci sono le responsabilità ovviamente vanno individuate, questo è il compito della magistratura. Grazie intanto Sara Monaci. Ciao. Grazie, cara Sara, buona serata. Ciao. Ora direi di salutare direttamente il nostro Paolo Corazzon di Trebi Meteo, perché è tempo di sapere che tempo farà in questo fine settimana, che è un ponte non ponte, nel senso che ponte c'è però all'interno delle proprie regioni si può girare fino al 3 giugno, fino a mercoledì, e però la notizia buona, la saprai anche tu Paolo, l'ho data in esclusiva mondiale all'inizio della trasmissione, è che il ministro Speranza avrebbe detto che nulla cambia rispetto a quello che era previsto per il 3 giugno, quindi la circolazione tra le regioni. Che ci dici Paolo di bello a tua volta? Allora guardate, questo ponte, anche se appunto ce lo godremo un po' a metà, ma, poteva andare peggio, perché è stato un momento in cui sembrava che potesse essere davvero bruttino, invece no, dipende molto dalle zone. Guarda, il nord Italia forse è la zona migliore del paese, perché grandi cose non succederanno al nord, il sole lo vedremo e come, solo qualche temporalino in montagna, magari domenica qualche nuvola al mattino. Se non è per il nord, il problema è che la sera al mattino farà freschino, ci vorrà la felpa, però poi il sole lo vediamo. Il centro Italia avrà, in queste ore sta diluviando in molte zone del centro Italia, domani ancora sull'Adriatico sarà bruttino, però poi da domenica migliora anche lì, lunedì, martedì, bel tempo, e quindi anche lì situazione che va verso un netto miglioramento. Forse il sud è la zona più sfortunata, più che altro domani al sud è proprio brutto, domani fa temporali, fa acquazzoni, le temperature calano. Però già domenica inizia un accenno di miglioramento e lunedì e martedì anche lì andiamo bene. Quindi guarda, tutto sommato un po' di sole lo vediamo tutti e come, dai. Quindi si aprono le giorni, si apre il cielo, si apre il tempo, molto bene. Grazie Paolo Corazzon, buon tempo a te comunque sia. Ciao Paolo. Ciao. Ci sentiamo alle 22.